Pronto? Venga, Massimiliano Bulldog da qua, buonasera a tutti. Ciao Massimiliano. Ciao Massimiliano, e dove stai andando, venendo? Qua sono i miei, capito, Baldinga, da Liputi. Come ti sento un po' strappato. Guarda, adesso bene va così. E ho troppo forte, sì, là. Buonasera a tutta la ruota. Ciao Massimiliano. Ciao Duccio, buonasera anche a te. Dove stai andando? A Domo? No, sto andando a prendere una commissione, lì in zona Sacro Cuore. Ciao Massimiliano, se mi ascolti, buonasera anche a te. Luca, buonasera. Bene va adesso? Sì, troppo amplificato, abbassa, sì, troppo amplificato. Ce l'ho fatto io, quindi devi abbassare, abbassa. A quanto c'è questo microfono? Ah, no, ce l'ho attaccato là a 12.30, guarda adesso che l'ho spenta. Io non ti ascolto bene, no. Gianni, tu l'ascolti bene? Chi? Chi vedi questo 68 e adesso l'ho messo a metà, bene va. Adesso va bene, era quarta prima. Poi se tu vuoi usare così, usalo così, ma è incomprensibile, c'è troppo confusa la modulazione. Ma Massimiliano, lei mi conferma. Prova. Eia, così va bene adesso. Così è comprensibile almeno, prima è troppo forte, non capivo nulla. Ecco, adesso è a metà, poi è acceso alle 12.30, bene va così, distorce ancora. No, così va bene, va benissimo. Fa tutta la manetta questa storia qua, vai, in bici game. Adesso l'ho messa quasi a metà. Ma così va bene, avanti il doppio. Sì. Dai, io vi rimango all'ascolto, buon proseguimento, veramente se vedi entro dopo, se ci siete. Per me, dai, grazie, sono di testa con questo cellulare, sono un bello, butto dentro, come si chiama, il VC, che l'acqua, butto, facciamo viaggiare via Fogna. Luca, dimmi, stavo ridendo prima perché pensavo al nominativo Luca cellulare, 30 anni fa non si sarebbe potuto coniare questo nominativo. Infatti, si conferma. Il potere dei tempi. No Gabriele, ma chi è che sta cagando qua? No, nessuno. C'è Luca che sta combattendo con un cellulare che sta cercando di aggiustare. Lo ha già minacciato che se non si mette in briga lo mette nel cesso. Ma tu capi, devo cambiare non so che cosa. Poi vabbè dai, studente, sono messo in briago, dalla sapere. Come io per fare un caffè a faccia vostra? Che tu butti, allora, ma che sono puliente, ho chiesto, mi ha mandato un caffè, adesso si è fatto avanti, allora Ponato, io ci me lo preparo. Tu vuoi ore? Io prendo un uomo e ti buffa pure una bella latte di vino verde, io. Ma non si è fatto il 3. Cos'è la 7-3-4-3, cos'è? Chi fa la sera per 3 ore? Compreso, dai, se me lo preparo. Vuole, viene a casa caldo caldo, dai, fate voi, che vi devo pregare, no, per un caffè. Già non ve lo faccio pagare, dai. Sono Mario. Dimmi. Adesso già sta uscendo bene, dai, non sta fischiando. Però ti sento la voce a rauca, non so se sei tu o se la radio. No, la mia, sono un po' rauco, capito. Ma la radio va bene adesso. Adesso sì. Prendete, grazie mille. Dai una pastiglia a valda a quel microfono, quasi che le faccia bene. Mio nonno la prendeva 20 anni fa, le guariva sempre la gola. C'è una aspirina. E l'aspirina fa passare il mal di testa, non il mal di gola. E questo è il mal di gola, il mal non sta molto bene, quindi non ci scherziamo sopra. Avanti, Luca, se ci sei ancora. E ci sta, non dove stai andare, già che sono qua per capopiede, dai. Il telefono non mi serve, lo devo aggiustare. Se no, ritento un'altra volta, sono per robusto, e nuovo, è fiammante, è nuovo di fiammante. Dai, ripeti tu, Salvatore. Che cosa c'ha? La traccia di tutto, però non mi comanda, praticamente mi ha fatto massaggio, io vado su lì, sul menu e praticamente non mi comanda. Non mi serve. Per entrare dentro il menu non mi fa entrare. Ho bloccato proprio. Poi ho cambiato anche il flex, ma non fa. Buttalo via, buttalo via. Via. E comprati il Galaxy, che è bello. Ho comprato il Galaxy col telefonino. Il telefonino si chiama Galaxy. Vedi che non sei esperto. Non sono più su dei telefonini, basta. Galaxy è di ultima generazione. Manca solo che ti faccia lo scontrino per far tutto. Certo, non ce ne butto più su dei telefonini, basta così. Avanti, Salvato, riprendi tu, va. Pappa, parole sante. Io i telefonini li cambio solo quando esalano l'ultimo respiro. E dopo che hanno esalato l'ultimo respiro, se c'è qualche amico che nel frattempo, preso dalla mania di cambiare i telefonini, mi dà il suo, tanto di guadagnato. Così ho fatto ultimamente. E io il mio? Ce l'ho già da un po', ce l'ho 3 anni. 3 anni. Non so, non è meglio io per i telefoni, anzi se posso fare a me è meglio. I telefoni a me mi rompono, perché al lavoro lo uso troppo, ogni 5 secondi mi chiamano, quindi ti puoi immaginare quanto li posso avere i telefoni. Poi con gli applicativi che oramai possono essere installati e a causa delle multifunzionalità che oramai, di cui oramai sono dotati, stanno diventando anche un'arma a doppio taglio, perché si riesce oramai a carpire anche informazioni private riservate di un cellulare che c'hai nelle vicinanze tramite Bluetooth, con applicativi del piffero che oramai si trovano a disposizione anche su internet e che riescono a craccarti la connessione, quindi non è una cosa che non, sinceramente non mi piacciono. Poi vabbè, ci sono tanti cose, puoi ascoltare anche le telefonate con delle apparecchiature che si attaccano al telefono, sono tipo spie. Se tu puoi dire vicino una macchina dove ci sono delle ragazze che stanno telefonando, vuoi sapere che cosa stanno dicendo, le ascolti e ti dicono e sei di tutto quanto. Cioè sto dicendo che il bello delle novità tecnologiche spesso nasconde anche rovesci della medaglia e sono praticamente la messa in piazza di propri affari. Perché? Perché non è che siano tutte quante scritte le applicazioni che fanno funzionare queste apparecchiature con dovute ai sistemi di protezione, tutto lì. Lo so. Poi questo Galaxy è un telefono che fa la Samsung, è un telefono mega galattico, proprio si chiama Galaxy perché è una galassia dei telefoni. Allora, il Galaxy è noto per essere un telefonino, se così possiamo chiamare in maniera riduttiva, per gli smanettoni. In pratica tu ci puoi fare un upgrade di una serie di applicativi. E viene rivoltato come un calzino con il software di sviluppo del Galaxy stesso. È proprio un telefonino per smanettoni quello. Pagato. Non per quelli che lo usano solo per telefonare. Detto tra parentesi. Sì, infatti. No, ma era per dire della serie, guarda come possono essere pure utilizzate in realtà tutte quante queste cose. Pagato. Sì, è vero. In modo anche errato, certo. Avanti, Antonio, tu ti sei preso questo caffè? Ancora stavo uscendo, sto aspettando, tra un po' esce, dai, mi stavo ascoltando, ecco. Quanto è? Con i telefonini come si è messo? Li cambio ogni tanto. Io la verità ho i telefonini qui da 23, da due soldi. Non mi interessa né fotocamera, né videogiochi, né fotografie, proprio, ma mi servo solamente per telefonare, neanche per messaggiare. Poi mi cadono a terra ogni giorno una 15-20 volte, e non sto esagerando, la verità. Mi fanno 2 o 3 anni, ma massacrati nel vero senso della parola, che anche la batteria devo tenerla con lo scotch. Proprio il telefonino io, la verità, lo odio. Ma io lo odio proprio perché lo uso come attrezzo da lavoro, capito? A me ogni 5 secondi mi chiamano. Gianni, mi chiamano di questo, devi andare là, boom, boom, boom, sempre, sempre con questo telefonino andare in torre. Una volta l'ho tirato a terra, ma sul serio, mi non scherzando, ho preso la parte e ho tirato il telefono a terra, si è rotto. Infatti la verità ti prende troppo il telefonino, ogni 5 minuti ti disturba, ti distoglie anche dalla vita quotidiana che fai e devi saper usare come qualsiasi altra cosa, ecco, ti distrae troppo anche dalle persone. Sono delle persone che ti parlano senza guardarti in faccia e giocando col telefonino, quello è la verità, le odio. Fate precluso solamente per telefonare e boh, poi è sempre messo da parte, no. Per fortuna ho altre visioni per il telefono io. Non guardare quelli che attraversano la strada col telefonino all'orecchio e senza guardare dove vanno, o quelli che lo usano in macchina senza pensare che cosa stanno facendo. L'altro giorno sulla VTV diceva la fila di 1 chilometro, non capivo cosa era. Io ero in moto, sono passato tutta la fila e sono arrivato al culmine, c'era il tipo che stava telefonando col cellulare, infatti gli ho detto anche cosa. Senta, guarda cosa stai combinando, c'è tutta la fila dietro, no scusa, è a me scusa, non mi devi dire a me, no. Cioè lui chiamando tranquillamente andando a 10 all'ora, tutte le macchine dietro, perché dice, lo sai com'è, non posso passare se ci sono macchine che vengono dall'altra parte, si può andare a fare la 4 corsie, è un casino. È un brutto vizio, ormai la gente sta condizionando un po' troppo la tecnologia, invece di usarla diciamo in modo più ragionato, ecco, con la testa, usano così per gioco, senza dargli un significato, la verità, no, per quello non ho problemi. Vedi, mia figlia ha 9 anni, il telefonino non ne ha, e non ne, anche se quante volte me l'ha chiesto, me lo compri, no, assolutamente, ancora, e lei deve pensare a giocare, non al telefonino, dunque lei è libera di giocare senza avere questi impedimenti, e poi ognuno la pensa diversamente. Comunque io per il momento la verità lo odio e basta, la verità. Un amico, che manco il televisore in casa ha mai messo, perché dice che il televisore condiziona in modo sbagliato il ragazzo. Ai figli facevo fare lezioni di inglese, tutte queste cose qua, però mai televisore. Il televisore quando veniva in sede dove io facevo volontariato, i figli si attaccavano al televisore perché in casa non ce l'aveva. Mi sembra un po' eccessivo questo, Questo sì, in effetti. Lui dice che il televisore ti dice quello che vogliono loro, ti inculca cose che non sono giuste. Capito, comunque insomma una mezza misura si può sempre trovare. Io per quanto riguarda il telefonino ho fatto lo stesso discorso di Antonello, a nostra figlia abbiamo detto che per ora non se ne parlava, adesso lei ha già 10 anni, ma manco per idea, ho detto non c'è bisogno. Dipende anche dalle esigenze, capito, dipende anche dal tipo di esigenze che tu hai. Bisogna anche responsabilizzare in qualche maniera. Invece mio figlio ce l'ha, ma perché? Perché l'ha cambiato mia figlia e gliel'ha voluto dare. Lui lo usa solo esclusivamente per chiamarci in caso di bisogno, quello. Guarda, io sono d'accordo con quel tuo amico che ha impedito di guardare il televisore ai figli, non sta facendo una cosa negativa, anzi io la vedo molto positiva. Perché dice che inculcano cose che vogliono loro, secondo i canali che guarda specialmente dice che ti inculcano cose che non vanno bene, che la mente la dobbiamo avere per ragionare con la nostra mente, non per ragionare con la mente degli altri. in effetti io al televisore, piccola verità, io guardo i telegiornali e i documentari, non guardo altro. Io non lo metto in dubbio che un pochettino deve essere un po' aggiornato nelle situazioni di ogni giorno, però diciamo chi ha un pochettino di testa potrebbe anche pensare, ed è così purtroppo, sia qualsiasi giornale, qualsiasi quotidiano che ognuno compra ogni giorno e sia il televisore, ti danno notizie che vogliono loro a modo loro. Tantissime cose vengono nascoste, ma per il semplice fatto che mettono la maggior parte delle persone in condizione di non pensare per ribellarsi in modo che i potenti facciano loro porci comodi per sfruttarci, e quello è purtroppo il televisore e i giornali. Infatti ripeto, io sono anni, vi giuro anni che non guardo il televisore e non leggo i giornali quotidiani perché ne sono stufo di sentire sempre le solite cose ed essere condizionato. Io la verità la vivo la vita ogni giorno a contatto, cercando di essere il più possibile a contatto con le persone, e a me mi va benissimo e sto bene, da una parte sto molto bene, poi ripeto, sono sempre punti di vista. Assolutamente, ne approfitto, siccome mi sta per partire un torneo che mi sono iscritto, lascio il baracco acceso che vi seguo volentieri, casomai rientro più tardi. Vai pure, diciamo buona serata allora, e poi quando vuoi ripetiamo qua. Diciamo vivere personalmente le cose piuttosto che per sentito dire, è quello che bisogna appurare le cose, però un minimo di informazione già ci vuole, anche quello là. Sì, quello sì. Comunque fatto sta, ho fatto il male della favola e stai andando a guardare il televisore, complimenti Il caffè è pronto e vado a prenderlo un attimo. Cappa Antonio, buon brasileiro allora. Chi è rimasto sul canale? Sul canale 5? Mario, ci sei ancora? Io sono qua, ascolto già. E che cosa era quel fischio? Ehi, come allungo la mano, no? Come allungo la mano, perché c'ero in camera, vicino al letto, tu lo sai, che non mi sento tanto bene. Certe volte con qualche manopola e si gira. Ecco. Appaga. Ho capito. Grazie, con il gatto, ma... Ehi, a letto sono... Ieri ho fatto un po' di esame, ho fatto al cuore, automaticamente per quello, per la diabete, il cuore è abbastanza a posto. Meglio così. E la glicemia? No, come glicemia non mi posso lamentare. Come glicemia ti dico, sono stato sempre uno preciso mangiando e tutto. Adesso me l'ho misurata prima di mangiare, a mezzogiorno e mezzo, e ce l'avevo a 72, capito? Sì, già va bene allora, a voglia, ce l'hai come una persona normale, anzi. Sono persona normale. Grazie di tutto, già ci sentiamo alle prossimine. Aspetta già. Scappa avanti, Gio Maria. Buonasera, no, volevo un controllo, sono in campagna comunque. Come sta uscendo? Comunque buonasera anche a Mario. Sempre perfettamente. Bene Gio Maria, ben sentito. Ma già giù in campagna, sì. Aspetta Mario, il 3006 già, come va? Bene, di uso, la radio buona, un buon segnale, va bene. Camari, vai, e allora tra l'altro che scende più in campagna stasera, me ne salgo domani sera. Qua si sta bene, molto bene, per cui tranquillo e pacifico. Va bene, grazie per discutere, ciao. Stavi bene, grazie del controllo. Dovevo chiudere, è Mario che stava chiudendo veramente. Ah, allora cellulare. Mario! Ehi, ha detto, ma che in campagna te ne sei andato? E allora Mario, aiuto, vieni mai qui a fare un po' di susine. Ehi, fa, ma speriamo che ci pensi a questo poverino. Ehi, io ci penso io, chi ci deve pensare allora? E già lo sa, tutti in terra e noi, a cantare roba guasta, professa, una guida del safarato, stai tutta, tutti in terra e... Okay, allora sta andando bene, no? Bene, e Mario, se tu stai in terra non c'è appunto cosa ne fai, vai là, tu lo vedete più. Ok, va bene. Ti saluta mio marito perché stavo facendo QRT, un momentino, devo andare con TH piccolo, cioè, ci sentiamo più tardi, ciao già. Ciao ciao Mario, ciao, ci sentiamo, Mario. Dai. Buona serata. E tante cose belle. Ciao Mario, andate a fare quella manopola che ti ho detto stamattina. Qui no, esce sempre a frusci, è lungo come allunga la mano, no? E siccome sono vicini i tatti, allora... E tocca quest'atto e va a manda a corso le macchine a fondo scala e esce a frusci. Ma ecco cos'è. Cappa. Aumenta troppo, con le regolate e a nulla aumenta troppo. Ho capito. C'era anche Antonello. Vediamo un po' se si è preso già il brasiliano. Avanti Antonello, se hai bevuto questo caffè della caffettiera Mocca. Cava, cava. Ma ci vediamo, va. E allora, rientra la mezz'ora, l'abbiamo accompagnato, il tornato, l'ambulanza. Cava, cava. E tutto a voi, certo. Vabbè. Anche tu ci stai andando? No, no, sono andato, a una commissione, e non so, poi dicevano un particolare lampeggiante, non so cosa, stavo andando a guardare, a controllarla, l'ho accompagnato, l'ho lasciato lì. Paga. Mo ce la rientriamo e ce lo smettiamo un attimino e tutto bene. Ehi, Andà bene. Quindi tornando lì giù, a cosa? Paga, però stavo cercando di dovevo dire cosa io, ho telefonato ma non mi rispondeva, deve essere che era occupato. Non lo so, già, non te lo so dire. Io ho chiamato presto, ieri mattina alle 8, tornella, e gli ho risposto. Ah, vabbè. Cava, d'accordo. Vediamo un po' se c'è Antonello. Antonello lo fa il caffè e ci deve fare anche una cagata. Così è? Sì. Tu lo conosci bene allora. No, non lo conosco per niente. Marco Deo. Cava. Mi deve prendere l'acqua a San Martino, a quanto ha detto. E anche io adesso me ne rientro e stavano già preparando il caffè quando sono uscito e adesso ce lo troviamo callo. Non me lo sono già preso, dico la verità. Me lo sono preso dopo pranzo, un bel caffettino. E poi sono venuto qua alla radio. Cava. Giumba di giorno, sono stanco morto. Speriamo stasera ci sia qualcosa da fare, sennò guai. Anche io, adesso io arrivo a casa, mi faccio il caffè, mi rosmo, metto l'antenna e mi ci butto nel letto. Questa mattina mi sono alzato presto, fare commissioni, commissioncina. Quando c'è il tempo libero vai, se passate queste cose c'è poco da fare. Se non le fai del giorno che hai libero quando li vai. E dopo ti assili, no? Perché te ne fai una dopo l'altra, alla fine poi ti stacchi più degli altri giorni. Ma poi così, cioè, fai il conto, io fa le 6 la mattina al lavoro, quindi mi ripreso alle 5:10, ma un quarto e... rientro la sera alle 6 e mezza e trovi tutto chiuso, capito? E beh, dopo la gara non penso che sia assai, no? Da dove la travagliare si sa. E anche quello, che poi tutta la settimana siamo saliti attivati. Ma dice che il 31 c'è Beniturgo a Porto Torres. C'è anche stasera Beniturgo a Fisilio. Allora, stasera c'è Beniturgo, domani ci sono. Poi domani c'è un altro gruppo, non mi ricordo cos'è. Appaga, appaga. Vola sapersi. Dove è Beniturgo? A Fisilio. Ah, e mi sa che c'è anche a Porto Torres il carnevale dei bambini, se non sbaglio. Quella che ora inizia, lo sai? E c'è il programma, devo andare a controllare. E va bene, comunque, ma era la favola per informazione. No, dopo il caffè non vado di corpo, tranquillo. Vado la mattina presto, prima di andare a lavoro. No, era una battuta, l'ho fatta, poi. Lo so, sto scherzando, no, ma anche la verità, la mattina presto appena trucchio, così tutta la sera, tutta la giornata sono tranquillo, dai, non ho problemi di trovare qualche cunetta, qualche campagna al riparo per rifugiarmi lì. Attacco di cui ci permettendo. Quello, già da che è andata più di una volta, guarda, una cosa impressionante, comunque, dai, sorvoliamo, questi sono discorsi di merda. E poi lo sai cosa è, Antonella, quando spinge, tu puoi friggere le chiappe, ma lei spinge. Sì, non c'è il rimedio, E se ti fermano quei corsi strani, quelli a sudare a freddo, io la carta igienica ce l'ho sempre in macchina, non si sa mai. Anch'io fido un pacco di fazzolettini, dai, per evitare un po' il disagio. Sono cose brutte che bisogna affrontare, sì. Dunque è meglio alzarsi mezz'ora prima e anticipare lo stimolo. Vai, cari, prendi tu. Aspetta, sto bene. Ma quella di cacca. Vabbè, almeno un discorso serio, l'ha detto. Perché in bagno è? Il discorso di cacca, bubbo. Che è in bagno? Ecco, quello che ti dice come la fa la pecora, come la fa la mucca, eccetera, eccetera. Quando tu gli rispondi ti dice, ma tu sei di mezzo, ti intendo. Calma, calma. Oh, signore, dai, io vi lascio che sono quasi quasi 100 metri e siamo a casa. Ci sentiamo, un saluto a tutti. Bulldozer vi saluta. Buona serata e buona continuazione per tutti. Dai, ciao. Ah, ciao, Bulldozer, ci sentiamo. Ciao e buon riposo, non alzarti troppo tardi che poi ti senti rincoglionito, un'oretta basta di riposo. Ciao, Vassilia, la luce mia, ciao. Ciao a tutti, dai. E le osso non la recuperare, io l'ho ragione. Ma non c'era Salvatore, salva tutti. Salvatore, avanti. No, è andato a vedere il televisore, non gli hai anche riproverato che stava a guardare il televisore. È vero, il caffè mi ha rincoglionito, sicuramente troppa caffeina c'era. Ma perché è carogna? Dio mio, a 37 anni già vecchio sono, andiamo bene. Già sei giovane, a voglia. A quando sono 100? Lo so, ne ho da modulare. Grazie, 1974. Col microfono in mano. Ehi, a sud del 74, sì esatto, e di che mese? Io sono del 74, mese mio o dicembre, tu non lo so, Te lo dico io, 14 marzo. Tu sei più grande di qualche mese, quasi un anno va. E iniziamo lì alla fine, dai, sì. Comunque il 74 è una bella annata, all'epoca facevano anche un buon vino. E si conferma. E 74 dici, ma poi come passano gli anni? Lo sai che più invecchia il vino e più buono è? E quando non diventa aceto. Basta mettere i solfitti. Per queste cose io sono contrario. No, a parte gli scherzi, no. Io lo prendo un vino buono a questo signore che è un po' anzianotto, però lo fa ancora. Fuggi qua al 100%, dico che è una meraviglia, 2,50 il litro, però almeno sai cosa stai bevendo. Però purtroppo quando l'ho preso la settimana scorsa, diciamo tra virgolette, dai, sei un po' lamentato, dice tu sei l'unico di tutti i clienti che veniva a prendermi il vino, sono l'unico che vado a prenderlo e la maggior parte non vengono più perché a quanto pare non c'è più grana in giro e dunque si stanno anche privando di un bicchiere di vino a pranzo, almeno te ne bevi uno, ma come si deve. Dunque anche questa qua è crisi purtroppo. Purtroppo questa qua dalla pressione se non ce la fanno accampare, quindi cercano sempre a rotondare in qualche modo. Sì, ma purtroppo il bello, tra virgolette, vanno a comprarsi il vino da LD a 99 centesimi e te regala un'altra bottiglia. Cosa stai bevendo alla fine? Ha detto, vuoi prendere un litro, anche un litro di 2,50, ma ha detto, vuoi bere un buon bicchiere di vino a pranzo, ma almeno sai cosa stai bevendo, e quello è vino, nel vero senso della parola, senza aggiunta di niente. Antonè, io mi ricordo ancora quando andavo a vendemmiare che c'era la vasca in cemento e che giravi la manovella per macinare l'uva. Ti mettevi sopra questo sgabello e giravi la manovella. Quello lì era il vino che faceva il padre di un amico mio e quello era vino a vino. Ma vino che se ne bevevi due o tre bicchieri imbriagava proprio. Infatti questo lo mette il solfite proprio in questo vino perché ha molta gradazione il vino rosso e dunque si conserva, diciamo, a lungo, a quanto pare metto massimo li dura due anni perché c'è un'ottima gradazione proprio apposita per durare senza nessun medicinale, ecco, dunque un bel bicchiere basta e avanza, vedi? Ma in due anni lo fai fuori, dai. In due anni già lo fai fuori. Aspetta. No, e fino a buona sta medica, quando comincia a bollirli a aggiungere roba, è come i pomodori, ci metti. Mia madre non ne ha mai messo l'acido salicilico, prima metteva l'acido salicilico, mamma non ha mai buscato. Quello sì, conviene berne poco e come si deve, come con qualsiasi altra cosa, anche gli alimenti, se è possibile comprare frutta e verdure da chi li coltiva in campagna, conoscendolo, giustamente anche chi lo mettono medicinali, perché la verità si compra anche troppa mondetta nei negozi alimentari e alla fine, e bisogna sapere scegliere poco ma buono, però purtroppo la mentalità è quella che è, dunque si lamenta più avanti alla fine col passare degli anni aver mangiato tante schifezze che iniziano a esserci dei problemi, ecco, tutto lì. Vedi già che vi incomento io, tanto funziona adesso, e ormai se una persona non la puri quattro volte l'ho aperto e cos'era? Boh, il flex, sai cos'è il flex? È quello che lo apre lo praticamente ho un'applica un po' messa male, cosa ho fatto? Mi sono giocato un po', sono ritrattato e se funziona più dei comandi. Ma dimmi tu che vabbè, una bomba, va, una bomba, la schiglia, va, adesso lo chiudo, la riprendo, ma di chi è quel telefono tuo? È il mio, allora. Quelli dei gatti invece hanno più avvistato, il mio è la dici luci. E vabbè, capita. Oh, io glielo m'appento. Io guarda, c'è un computer fermo, c'è il computer fermo, il portatile, perché questo portatile da quando l'abbiamo comprato scaldava, l'abbiamo mandato a certa assistenza, ci hanno cambiato la scheda madre, gli abbiamo messo delle ventole aggiuntive, tutto qua da fare, scaldava sempre, alla fine ha bruciato anche agli alimentatori e poi si è bruciato lui. Praticamente fino al momento che si è spento, che si è esaurita la batteria, funzionava. L'ho portato a aggiustare e mi ha detto, è la scheda madre. E quindi l'ho lasciato fermo, non l'ho ancora aperto per vedere se si può fare qualche cosa. La scheda madre, bisogna vedere. Ma c'è nel vostro computer? Allora, praticamente è successo questo, Luca. Allora, faceva parte di tutti gli alimentatori, probabilmente era un corto che c'era all'interno, ed era dove c'è praticamente lo spinotto femmina dove entra il jack per l'alimentazione. Quello lì si riscaldava e a volte il jack si saldava al coso, tanto è vero che l'abbiamo dovuto anche sostituire quello lì, ci ha messo un mese per arrivare dall'America perché il pezzo era proprio in America e doveva aspettare che arrivasse. me l'ha aggiustato, dopo che mi ha aggiustato quello lì, non mi caricava più. Non mi caricava, quindi l'ho usato sino a quella fine della batteria, però poi faceva un odoraccio strano di bruciato. E sin quando è finita la batteria funzionava, quindi l'apparecchio è funzionante ancora sicuramente. Lui mi ha detto che c'è, però dovevo comprare il nuovo computer, mi ha detto guardi tutti dicono così, non si fidi, lei lo mandi al centro assistenza perché tutti dicono che la scheda madre per le fascio dai piedi, perché magari non hanno voglia di aggiustarlo. Già. Il portatile è molto delicato, ma è uno di un'amica, Bisone, scarda troppo, sicuramente c'è la ventolina sporca dentro, praticamente l'aria calda non esce come deve uscire, c'è una lampada da bene, perciò quello vuole aperto e pulito, perché funziona tutto, solo che intanto si inceppa. Hanno bisogno delle rette ausiliari, io quelle gliele ho comprate, anche se dai cinesi, di quelle che si illuminano tutte, tanto è vero che a me mi si è fulminato un LED blu e l'avevo recuperato da uno di quegli affari lì che l'ha rotto, l'ho recuperato lì per mettere all'apparecchio perché non ce l'era la sassa di vendita di quella misura e l'ho preso da lì. Antonella è troppo bravo, l'amico di Natalino, che tu sai bene, è veramente bravo quello, è un 50. Ma poi già, è amico mio veramente, l'amico di Natalino, a te l'ha conosciuto perché è amico mio. Vabbè, comunque sì, è molto bravo già. Te l'hai aggiustato a parecchio Antonella? Buono, non so se ne è aggiustato parecchio, comunque, non ecco perché non esce, mannaggia. C'è la scheda. Già, ripeto, è bravo, bravo veramente. Guarda, io stavo provando con un amico, siccome una volta gli ha guardato un pugno, e dando di questo pugno sopra, c'è la whisky, no? Sotto. Però anche se non sopra, ci fa questo, si blocca, non va più, non corre più, cosa faccio? L'unica cosa che potrò fare è spegnerlo e riaccenderlo, no? Lo riaccende tutto nero. E in pratica avevo spaccato la whisky, allora ho comprato un nuovo. Questo mio amico mi ha detto che praticamente era da cambiare, ecco, ho preso nuovo, abbiamo provato a installare di nuovo questo operativo, non capiva, in nessuna maniera, ora Tantonello ci ha messo un po', nel senso un'oretta o due ore, e l'ha messo a posto, era una bomba, è sempre una bomba, qua, è una bomba. È bravo Antonella. Ma non è adesso che viene aggiustato il computer, è una vita che fa quel lavoro, inoltre lavorare in albergo, perché lui era direttore d'albergo, poi però ha sempre fatto questo lavoro qua, il direttore d'albergo lo faceva in estate, poi d'inverno faceva questi lavori qua. Lo volevano anche la ditta, addirittura l'hanno chiamato in America a fare... a mettere a fare dei siti, è stato in America due giorni, spesato, pagato di tutto e mi pare che ci ha fatto 1.000 euro in due giorni. No, io ho visto, perlomeno, non so come ho visto, non, anzi, ci mancherebbe, no, non bisogna, sarà curare, dai, non è un 50, poi la sua parte sarà fatta. No, già è bravo, a me me l'ha messo apposta un po' di volte il computer, me l'ha messo un po' di volte apposta. Idem, la prima volta che l'ho formattato perché non avevo più, era, a parte che era vista, e poi era un casino, troppi programmi, troppa ondetta, foto, c'era un casotto, ma l'ha formattato, andava alla meraviglia, poi una volta che ho dato un pugno, stavo giocando a poker, come stavo guardato bene, avevo un po' si è inchiodato. Ora niente, ne avevo preso di nuovo, ci avevo comprato l'hard disk nuovo, non c'era prima la 80 giga, questo come sta adesso era 320. Diciamo che è un po' lenta da accendere, ma non più di tanto, prima proprio la scheda, acceso subito. Adesso un po' lentino perché, essendo un disco più grande, così mi ha detto lui, non è che io ne capisca tanto di insomma, ancora non sono proprio al 100%, comunque già nel mio piccolo mi arrangio. Prego, avanti. Gianni, provai il controllo di questa radio che me l'hanno sistemata ieri. chi sei? Ludo. Sei io. Aspetta che mi devo alzare, che non ci vedo, sono così. Prova. Guarda, vedere, ero già. Io mi hanno sistemato, no? E già va bene, lo permetti la decisione. Comunque la radio va bene, spinge bene? Sì. Cava, cava. Puoi fare un pubblico, MB40. Sta un po' strappando. Aspetta, non so, non so se sia una mia impressione oppure... Prova a parlare. Ma non sarà magari troppo forte il tuo microfono, che devo chiudere un po'. Prova a abbassarla, ma sta... Guarda, così già è a 6 il mic, a 5, là, del Sadelfa. Così anche è troppo basso, appena appena. Guarda, a vedere, così ho aumentato un pochino. L'amplificazione si sente un bel quando... Quando ti ho detto che stava strappando, si sente molto. Appena appena meno di quello lì dovrebbe andare bene. Come di quello lì? Come ce l'ho adesso? Devo abbassare un pochino? No, di come ce l'avevi prima, quando strappavo. Mettila appena appena di meno. Guarda, a vedere, così ho abbassato un pochino. Boh, adesso di lusso. Va bene, quindi spingi a meno come radio. No, ha di nuovo strappato. Guarda, già gli ho abbassato un altro pochino. Adesso sta andando bene, però fai passaggi lunghi, perché poco fa, nel primo momento non l'ha fatto, poi a metà frase ha strappato un po'. Chiama, chiama. Passaggi lunghi, vedi un po'. Allora, questo è un Mubico MB40, con... forse sta strappando, aspetta. Allora, forse la batteria scarica potrebbe essere, capito, già. Con Sadelta accoppiato. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ma Sadelta a tavolo, quello che sembra un rasoio da barba. Ma no, da tavolo, microfono a tavolo già. Ma me lo vedi, mi arriva il nuovo. Particolare, 5 bande. Allora, così sto andando con 5 watt già. E ma stava strappando di nuovo, microfonicamente c'è qualche cosa, o la batteria, prova a sentire la batteria, ma si vedrà e vediamo un po', perché anche adesso strappato. Già me ne accorgo già, anche perché, vedi, ogni tanto lo fa. Allora, così siamo 5 watt, mi ha detto che è 9,20. Così siamo intorno ai 15 modulati già. Vedi un po', sembra che non strappi neanche così, guarda, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cappa, aspetta un attimino. Guarda, va bene, ciao, signora. Lì, ciao. Vedi, Luca, lì è. Così me lo sento anche io in cuffia, che mi sembra migliore così. Da 5 a 12 watt, 15 modulati. No, guarda, un po', come dire, un po' magina, ecco. Dovrebbe essere microfono. Sicuramente, segnale 9, 10, abiti positivi quasi 15. Allora aspetta, provo un attimino questo Proxer DM1000, aspetta, cambio la batteria e voglio vedere se va meglio con questo. Prova un po'. Cazzo, vai bocchi. Cazzo, ma già sta raddo. Ascolta, così ho chiuso tutto tutta l'autenticazione. Con questo microfono non va bene, vero? No, è brutta, la scoperta è brutta. Non lo sto malapena sentendo. Ma dov'è in barra mobile? Vabbè, se no è fortissimo. Parlando la roba è a Puglia, è a casa. E che cos'è? Che io sono. C'ho il pannello solare attaccato e crea un po' di QRM fisso. Però lo sto sentendo molto basso rispetto a come lo sento di solito. A proposito dei pannelli solari, buonasera Globo. Giro. Pannelli fotovoltaici, utilizziamo. Fotovoltaici, ma non sono così, sono altre cose. I pannelli solari sono quelli che usano i sussinchi. Praticamente questi due amici si trovano e gli dice l'amico. Opa, ma come ti vai? Tu sei sempre di bici di tanta lunga invece che di luce, il lasso. Ma vai, non so bicicletti che ci sono, sono pannelli solari. Ma cosa si difende? Ti va di lasso. Ci vede che sono bicicletti, cata e torra. Puniti da mano così, ti fate pulire la mano. Sotto dove dice e li piscia sulla mano, dice a me le va a casa, e vista che sono pannelli solari. Oh Luca, fa calda. Sì, sì, mi assimilia. Con questo va bene o no? Non sei sincero, no, per me no. Quindi diciamo che il sapete si accoppia meglio, giusto? Insomma, ma per il mio passaggio fa un pochettino, Massimiliano, vai. Cosa va a passare però? Perché chiede del microfono o della radio? Il microfono. Questo è rimbombato. Questo mi sta mettendo scando. Mi si è alzato un po'. Luca. Adesso non Massimiliano, basta. 1, 2, 3, guarda a vedere. Allora così ce l'ho a 5, MB più 5, a 5. Sì, può andare, vai, già confermi. Così va bene la radio. Così c'è chiaro. Vabbè, cavolo. Che forte. Allora così Luca, sto andando con 12 watt di portata bianca, 15 modulati. L'apparato sta andando. Così sto andando con 5 watt, tondi, Luca. Scusa, prova. Allora, queste sono 5 watt e tondi modulati, vedi un po'? 9 e 10. Così invece sono 12 di portante bianca, 15 modulati. Secondo me è meglio prima, vero? Ma guarda, a me ti fa schifo la radio. E quindi la posso usare così? Aspetta, così va bene? Faccio la 12 e perfetto. Ciao, vuoi che mi dite, non si accoppia bene invece con questa radio. Ah, non è. Solitamente vabbè, può anche succedere, ma solitamente si accoppia bene con tutte le radio di MMI. Come ti dica già, con questa, hai visto, abbiamo fatto le prove e non va bene. Però quel di MMI lo vorrei provare nel tornado e vedere un po'. Ma non volevo tirare. Cosa? Il di MMI. Di nuovo, anche il Savetto è nuovo. Guarda che c'è una Static 110 euro, quello dovrebbe essere buono. Tipo MM più 3, più 5, però è una Static americana. Aspetta, voglio provare il microfono normale che ancora qui non l'ho provato e voglio vedere se va bene. Noi a vederlo su tecnocomunicazioni.it c'è la Static nuovo, 110 euro. Gianni, guarda questo microfono se va bene, questo è... aspetta, io l'ho avvitto. Questo è un palmare, normale. Sta strappando anche questo, sicuramente non dipende dal microfono, ma parecchio. Sta strappando? Cappa. Aspetta, ho chiuso un pochino il micchino, vedo un po' se strappa ancora. È un passaggio lungo. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vedi un po' se strappa, io non lo sento strappare, mi sto ascoltando in cuffia e non lo sento strappare, vedi un po'? No, effettivamente adesso lo sta strappando. Comunque va bene, la radio è presente? Cappa. Sì, voilà. Quindi va bene che va bene. 5 bande. Ma sai questo qua? Pubblico, Intec MB40. l'ho avuto. Mo vediamo, ci abbiamo ritirato anche il tornado, gli abbiamo fatto la mascherina nuova e vediamo un po' come esce. Tornado l'avevi modificato. Non le ho fatto niente, gli ho solo cambiato la mascherina e qualche accorgimento. Adesso lo le attacco il DM1000 a vedere come va. Gli attacchi gli stessi sono? Io li ho fatti fare tutti da Gavino, tutti Midland. Ah? A me lunedì Claude mi ha rifatto l'orario. Quello che me lo voglio ordinare anch'io comunque. Con Luca. L'ho trovato? Ah, ti hai preso già, baracchinetto nuovo? Eia. Cos'è? ITT 880. ITT? E che marca è? È una marca estera che però volevano molte marche italiane per rivenderlo e non gliel'hanno dato. Lo vendono a meno prezzo e ti assumi un bel mito. È tutto quanto blu, azzurro davanti, un bel bello. Ma anche canali e roba del genere? Yeah. E voi tu sì? Vado. Devo fare la modifica per questo. Scoppiato, signorina, bisogna tagliare un ponticello e te lo porta a 400 canali o a 120, se non me ricordo. E diciamo un baracchetto per la macchina di mia moglie che ho preso così. Mi faccio l'attacco della colonnina. Gianni. Anni? Ma se mi va, non so, vedo un po' col tornado questo DM1000 come fa. Siamo in partenza. Ma se mi va, non fa domani. La M sono. Ma dai, sembra l'FM. Di frequenza già. Le guance di brutto. Ah, non lo sentire. Tipo non ce l'ho in questo QTH, però ti sto dicendo rispetto al tuo, tu potresti fare la stessa cosa e autoalimentarlo. Non hai fatto. Però? Ma non ho fare guci, non ho bisogno di autoalimentarlo perché non. Ci ho fatto la scarica pure. Io sono meno di uno, c'è un mezzo guai, non ce n'è. Ma è meno di uno il mio. È troppo sa che fa vedere, è meno di uno. Usi per aumentare, vedi, io sono a me, però non succede. Mi lasci a due, troppo forte, non ce l'ha fatta, troppo forte. C'è l'amplificato, non ce l'ha parecchio, c'è il... come si dice? No, perché c'è stato inserito. In più, un troppo amplificato, in tutti se la cosa aumenta. Per evitare che vada in sovralimentazione, siccome è sovralimentato quel microfono per l'apparato, la va a prendere quel capello rosso che hai. Del connettore. Beh, tu hai fatto così, hai fatto, tu hai fatto dal centrale, cioè dal numero 8, mi sembra che sia, no? Sono sbaglio. Ho staccato la batteria, i due cavi della batteria, uno l'ho messo a massa, normale, l'altro invece il nero, mentre invece il rosso l'ho preso e l'ho collegato al cavo, l'ho collegato al cavo rosso che arriva nello spinotto. Ecco, nello spinotto al piedino numero 5, mi sembra. Esatto. Ora un po' quindi vai alla grande. Un attimino, dai, io mi lascio, accendo dalla macchina, vai. Mi sento giusto il tanto, per il momento, vado a prendere la voce, ciao. Ciao. Oh, lui, si è per spostato.